известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. There is sometimes a sense that old assumptions must prevail, old ways of thinking, a conception of power that is rooted in the past rather than in the future. There is the 20th century view that the United States and Russia are destined to be antagonists, and that a strong Russia or a strong America can only assert themselves in opposition to one another. And there is a 19th century view. La concezione del potere, questo l'argomento centrale a cui Barack Obama ha dedicato un discorso molto interessante, pronunciato peraltro appena un mese dopo quello altrettanto programmatico, impegnativo e se vogliamo anche ingombrante, detto all'Università del Cairo. Questa volta si trovava alla New Economic School di Mosca, in coda all'atere della visita in Russia, che è coincisa con l'avvio di una serie di accordi sulla questione nucleare piuttosto interessante, ma anche poi su una questione di disaccordi che faticano a trovare la loro strada. Ma come spesso capita quando Barack Obama accetta di parlare in un ambito accademico, davanti a una audience alta, se possiamo chiamarla così, il ricorso è verso i principi generali, universali, l'analisi teorica, se vogliamo. E allora una riflessione sulla concezione del potere nelle differenze fra ventesimo, addirittura diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo secolo, no? Le due superpotenze antagoniste che si scrutano, si osservano, si studiano e tengono anche in conto l'ipotesi di colpirsi, e invece un ventunesimo secolo in cui le cose dovrebbero andare nella sua visione assai differentemente. E la parola chiave deve essere necessariamente, per mille motivi, non ultimo il ridisegno della geografia politica del pianeta, dovrebbe essere appunto la parola chiave: cooperazione. Eppure la sensazione che da qui abbiamo avuto, e su cui ora interroghiamo il nostro ospite nonché osservatore sul posto, è che alla fin fine sia stato ancora una volta un confronto, come dire, fra Unione Sovietica, la parola ormai cancellata dai dizionari politici, e America, nel senso che comunque l'Obama e il Medvedev russo, messi uno di fronte all'altro a discutere di testate nucleari, di accordi antimissile, almeno da qui hanno evocato quel sospetto, quei lenti slittamenti verso, come dire, il concedersi, ma poi anche quel ritrarsi assai sbrigativo, che fanno parte poi della storia di questo rapporto difficile. Ma sentiamo da Mario Platero, il corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, ma adesso attualmente in tour, beato lui, al seguito di Barack Obama in Russia e prestissimo in Italia per il G8, se le cose sono veramente cambiate, insomma, se il confronto Obama-Medvedev è veramente con l'imprinting del ventunesimo secolo, se le cose, come gli piace tanto dire a Barack Obama, anche qui stanno attraversando un cambiamento. Buon pomeriggio, Mario. Buon pomeriggio, guarda, hai ragione, Obama ha espresso una visione, bisogna capire se la Russia del ventunesimo secolo è pronta ad accettare quella visione, certo. Perché in realtà la visione di Barack Obama, nelle sue grandi linee, e lo dico paradossalmente, ma non si differenzia troppo da quella di Bush o da quella di Clinton o da quella di Reagan, cioè gli americani hanno un obiettivo di lungo termine che appartiene alla loro storia, appartiene alla loro costituzione, appartiene al loro destino, ed è cioè l'obiettivo di diffondere la democrazia e l'economia del mercato nel mondo, quindi certo. Di diffondere, diciamo, quei concetti che poggiano su ispirazioni di libertà nel senso più lato del termine. Ecco, non necessariamente questo concetto di Pax globale americana coincide con gli interessi di altre strutture, di altri paesi, di altri regimi, e mi sembra che sia proprio il caso qui a Mosca, dove ho percepito un paio di cose secondo me molto interessanti. La prima è che mentre in Europa abbiamo visto un Barack Obama accolto da manifestazioni spontanee di entusiasmo, folle, così proprio che confermavano questo suo status di rockstar, ma certo, lo dico nel senso più intellettuale e più buono e più concreto del termine, quindi di leader in grado di mobilitare le masse, ebbene qui non è stato così, e non è stato così neanche fra i giovani, non è stato così neppure in questa università, in questa nuova università economica che pure è molto ispirata ai valori americani, finanziata da soldi americani, perché il primo finanziatore fu George Soros, e dunque dovrebbe essere, avrebbe dovuto essere, se vuoi, la culla migliore per poter vedere un Obama in trionfo. Ha ricevuto un solo applauso in tutto il discorso, un applauso alla fine del discorso, non c'è stata nessuna interruzione. Ho parlato con molti giovani mentre aspettavamo l'arrivo del presidente, ebbene erano giovani cauti che apprezzavano l'oratoria del presidente americano, ma si domandavano se poi sarebbe stato capace di tradurla questa oratoria in fatti concreti. Qui c'è uno scetticismo che circonda Obama, una specie di scetticismo. Prudenza, più che scetticismo, un po' di prudenza. E allora emerge che cosa, per parafrasare quello che tu dicevi prima? Beh, emerge lo spirito indomito della grande Russia, della ex Unione Sovietica, una Russia che bene o male rivendica sempre di più un ruolo di peso e vuole che questo ruolo di peso torni ad esserle riconosciuto, e in fondo Obama oggi in questo discorso ha cercato proprio di fare quello, ha parlato benissimo della Russia, ha auspicato che Russia e Stati Uniti possano essere insieme, ma soprattutto ha raccontato che cos'è la Russia, che cos'è stata la Russia per tutti noi, con i suoi scrittori, con i suoi musicisti, con le sue invenzioni, con le sue esplorazioni spaziali e così via, così via. Dunque Obama ha cercato di aprire, e di aprire, ecco, a un audience che secondo me resta un filo prudente. Ho parlato con alcuni professori universitari che mi spiegavano come i giovani russi siano in fondo più nazionalisti, mentre in Francia, quando eravamo a Strasburgo, i giovani francesi così erano molto più affezionati a Obama che non a Sarkozy, tant'è che quando hanno menzionato il nome del presidente francese, non dico che l'hanno fischiato, ma quasi, qui non è così, qui la fedeltà assoluta è ai loro leader, perché li rappresentano e perché rappresentano questa grande Russia che cerca di rivendicare un pochettino il suo ruolo. Quindi la missione è una missione non facile, e quindi certo, per me questo è stato un aspetto direi interessante in questo percorso con cui abbiamo seguito Obama internazionalmente. Ha avuto molto più successo al Cairo, insomma, certo, al discorso certo dell'Università del Cairo, che non qui, forse perché erano anche così più prudenti, forse perché erano magari più controllati, più severi, chi lo sa, questi giovani studenti nel loro giorno in cui prendevano la laurea. Ecco, tutto questo contornato poi, come accennavi tu, da elementi concreti. Sapevamo che si sarebbe raggiunto un accordo per impostare il negoziato sul disarmo nucleare, sicuramente molto importante, sicuramente molto interessante, ma non un elemento nuovissimo, cioè si parla dei disarmo ormai dal 92, si continua ad andare avanti su vari programmi di disarmo, questo diventa un ennesimo programma di disarmo. I temi caldi, la Georgia, la WTO, su cui gli americani sono rimasti sorpresissimi di aver visto una rinuncia russa entrare dentro questa organizzazione per il commercio, l'Iran, che resta la spina nel fianco degli americani, per ora, ed erano quelli gli argomenti veri, sono rimasti per aria. L'incontro con Putin, che è avvenuto poco fa, è stato un incontro che è partito un po' freddo e si è un po' riscaldato. Ma ecco Mario, proprio su questo ti voglio fare la seconda e ultima domanda. I media europei, italiani in particolare, tendono a sottolineare questa differenza di rapporto, anche come dire di slancio, espressa da Obama nei confronti di Medvedev piuttosto che di Putin, una specie di esplicita preferenza. Ieri in trasmissione parlavamo con un esperto di cose russe, russe che ci diceva: ma guardate, è una pia illusione e pensare in alcun modo di, no, di porsi come cuneo, di aprire una qualche situazione divisiva fra Medvedev da una parte e Putin dall'altra. Sono molto più coesi di quanto si possa mai ipotizzare. Puoi osservare qualcosa al riguardo? Sì, guarda, la coesione, ecco, come ti dicevo, la cosa che mi ha colpito di più è stata proprio questa straordinaria coesione russa attorno al loro modello, attorno al loro modo di essere, quindi questa posizione in cui comunque gli Stati Uniti sono visti ancora, indipendentemente da Obama, come un potenziale avversario. Certo. E per quanto a parole Obama cerchi di dissuaderli dal seguire questo percorso, questa posizione resta. Con Putin, beh, direi è stato un po' strano, perché abbiamo visto Obama che è arrivato, ha cercato di essere molto caloroso con lui, Putin era un po' rigido, Obama gli si è avvicinato per stringergli la mano, gli sa, per mettere il braccio sulla spalla, proprio per dare così un senso di maggior calore a questo, di maggior slancio a questo suo primo incontro con Putin. Ma quando ha visto che Putin era molto rigido, molto forse un po' teso, allora si è fermato, si è visto un po' questo braccio che tornava indietro e che non è mai partito. Poi l'incontro si è riscaldato, i due hanno parlato, Obama, abbiamo parlato con alcuni dei funzionari al seguito che hanno poi parlato col Presidente, hanno seguito almeno una parte dell'incontro e ci raccontavano che Obama è rimasto molto colpito da questo incontro con Putin, lo giudica un uomo di straordinaria intelligenza, di straordinaria preparazione. Ecco, con Putin sono stati più gli argomenti, diciamo, su cui si sono trovati in disaccordo che quelli, certo, su cui sono trovati d'accordo, ovviamente, come ci aspettavamo. Sapevamo che questa era una missione molto difficile per, certo, Obama, sapevamo, lo abbiamo scritto anche sul nostro giornale, che era il vero esame di politica internazionale, che Obama col suo buonismo, fra virgolette, rischiava un po' grosso arrivando tra le griffie di così un marpione come Vladimir Putin. Ecco, direi che alla fine di tutto questo, in effetti, Obama ha incassato poco per ora, però ha accettato le fondamenta per poter lavorare, reset, certo, per reset, per ripartire, certo, per poter ricostruire. Per ora l'America si accontenta di questa. Ti segnalo un aspetto, una parte del discorso di questa mattina che a me ha colpito molto, perché secondo me rappresenta l'avvio di un nuovo dialogo sull'Iran. Cioè, a un certo punto Barack Obama, in questo lungo ispirato discorso, ha fatto una cosa, una proposta molto concreta che diventa in qualche modo una notizia, e cioè per la prima volta ha detto che nel momento in cui l'Iran dovesse essere dissuaso dal perseguire i suoi disegni nucleari, non ci sarà più la necessità da parte degli Stati Uniti e dell'Europa, certo, di avere lo scudo missilistico. Certo. Ecco, non l'aveva mai detto in questi termini, e un'apertura alla Russia e un messaggio anche molto chiaro. Caro Medvedev, caro Putin, unitevi a noi, voi avete influenza sull'Iran, stringiamoli nell'angolo, costringiamoli a rinunciare, ma in modo serio, deciso e concreto, e a quel punto risolviamo anche i nostri problemi. Esprimiamo anche i nostri problemi. Certo. La partita avanza e sarà molto interessante vedere poi come reagiranno i russi. Bene, io ringrazio Mario Platero anche poi di questi, come dire, queste angolazioni ravvicinate in relazione all'incontro tra questi potenti, tanto più in una settimana come quella che stiamo vivendo, che in un certo senso è rappresentata ora solo all'anticamera, no? Poi si comincia con il G8, saranno tutti concentrati in poche centinaia di metri quadrati, e vedremo anche gli effetti, appunto, personali, al di là poi della rappresentatività che ciascuno di questi leader costituisce, rappresenta. Reset è proprio la parola con cui Mario inizia il suo articolo oggi sul Sole 24 Ore, e ci risentiremo quando ormai sarà tempo di G8. Get down. C'è un interrogativo al quale cercheremo di rispondere, perché poi l'informazione c'è, che circonda questa missione americana in Russia. L'interrogativo è: dove diavolo è finita Hillary Clinton? Bene o male, il segretario di Stato, no? la personalità con la principale delega ad agire, ad esprimersi, a prendere parte, a essere assai vocale in vertici di questo genere. Va bene, si è rotta ormai una quindicina, ventina di giorni fa, si è rotta un gomito, ma è possibile che una ingessatura fermi Hillary Clinton dai suoi doveri, dai suoi obblighi, ma anche dalla visibilità indubbia che un incontro di questo genere le potrebbe fornire? Bene, pensiamo di aver capito dove è finita Hillary Clinton. Vi rimandiamo fra una ventina di minuti e ve lo diciamo, perché adesso è il momento di parlare di una notizia. Che riguarda naturalmente l'atto finale di Michael Jackson. Se mai si voleva, come dire, ridare posto, ridare spazio, ridare senso a quella dimensione del postmoderno, no? Intorno al divismo della musica leggera, a tutte queste argomentazioni che fanno così tanto fine XX secolo, ebbene è arrivata la fatale improvvisa scomparsa di Jackson a ridare ossigeno a questo immaginario, no, fatto così di fanatismo, di partecipazione, di abbandono, di dolore, di malinconia, di fedeltà, di amore soprattutto. Che prenderà poi la forma di questo memorial che, dopo una cerimonia funebre familiare, andrà in scena oggi veramente in un profluvio, in una esagerazione di divismo americano, di affresco postmoderno, allo Staples Center, sul campo di basket dove giocano di solito i Lakers, che saranno presenti alla cerimonia. Ci saranno sia Kobe Bryant che Magic Johnson, ma poi ci saranno un po' tutti, star come Mariah Carey, Stevie Wonder, Lionel Richie, Jennifer Hudson, Brooke Shields. Non ci sarà Elizabeth Taylor, che ci piace proprio perché poi a questi riservi. Ci saranno dirette televisive in tutto il mondo, Italia inclusa tra l'altro a partire da le 6 circa ora italiana. Ci sarà anche questa è una notizia dell'ultimo ora, ci sarà anche il corpo di Michael, che prima doveva essere lasciato, come dire, riposare tranquillamente, invece gli fanno fare anche, sembra proprio, quest'ultimo giro, e presenzierà al memorial con o senza cervello. Pare che forse in sede di autopsia una parte del suo corpo sia stata trattenuta per continuare queste analisi, che forse interessano un po' poco a tutti. Tutti, no? Su quale sia stato veramente il farmaco o il momento decisivo della sua morte. Però c'è anche una grande unità di intenti, no? In un certo senso c'è una specie di revival di uno spirito pop che pensavamo sinceramente non vivesse più. Yes. caso di dire che hanno cominciato male, ma stanno migliorando con il passare del tempo. Sto parlando dei rapporti tra Benedetto XVI, Papa Ratzinger, e Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America, ormai da sette mesi, poco meno di sette mesi, al punto che in occasione della visita italiana di Obama per il G8, all'ultimo minuto, molto, molto tardi rispetto alle abituali comunicazioni relative alle agende di questi grandi personaggi, è saltato fuori un incontro, un'udienza privata che si terrà venerdì, poco prima della partenza dall'Italia di Barack Obama, verrà accompagnata nell'occasione da sua moglie Michelle, con Papa Ratzinger. E ci sembra un evento interessante, ma ci sembra un evento ancora più interessante se messo in connessione con cose che entrambi i due leader, i due personaggi, stanno dicendo in questi giorni, in queste ultime ore in particolare, come se ci fosse una convergenza, in un certo senso anche un'identità di vedute sulle reali necessità, sui reali scopi, tanto più al centro e non a margine, al centro e non a margine di un vertice così importante come il G8, con tutto questo potere che si esprime in modo così visibile. E la parola chiave di questo discorso è povertà, la povertà che ricorre in primissimo piano nella enciclica Caritas in Veritate, di cui proprio in queste ore si comincia a capire il significato, e ora c'è chi ce lo spiegherà meglio e ci potrà aiutare. Ma una parola, povertà, che risuona anche nell'appello, come dire, nel più importante appello sociale che il presidente americano ha rivolto ai colleghi, ma in un certo senso anche all'audience di tutto il mondo, perché venga ricordata e perché venga, come dire, posizionata, no, al centro di una mobilitazione che sia poi anche pragmatico, mani al portafoglio, punti di vista, oltre che naturalmente appelli etici come quelli formulati da Benedetto XVI nella sua enciclica. Abbiamo in linea Filippo Di Giacomo, sacerdote, giornalista, amico di questa trasmissione, amico di Jefferson, spesso lo ascoltate in questo spazio. Salutiamo, buongiorno Filippo, ciao. Buongiorno a voi. E vogliamo ascoltarti proprio a questo riguardo, no? In tutto questo disegnare equilibri, definire crisi e vie di uscita dalla crisi, c'è un Papa che prova a dare la sua ricetta, soprattutto all'origine della crisi, e non è una ricetta fatta di numeri, mi sembra una ricetta fatta di spirito, se me la passi. Però c'è anche un presidente americano, quindi, dove quello spirito dovrebbe essere finito smarrito, quello spirito di chiarezza, quella non caos mentale di cui parla Benedetto XVI, che è sulla stessa sintonia, prova a dire resettiamo alcune nostre condotte, proviamo a vedere le cose differentemente. È una interessante convergenza, non pensi? Ma noi siamo partiti con questa nostra chiacchierata ricordando ciò che la stampa aveva ipotizzato per i rapporti tra Obama e Benedetto XVI, e come anche in questi giorni abbiamo letto, diciamo sì, secondo me, la gigantesca sciocchezza che Obama andrebbe in Vaticano per prove di dialogo. In realtà tutto era partito da alcune dichiarazioni di un'ala conservatrice dell'Episcopato statunitense, che non raggruppa neanche il 5% dell'Episcopato statunitense. E ricordiamo anche che uno dei momenti più infelici, tra virgolette, del dialogo tra Santa Sede e amministrazione USA è stato quando il voto cattolico, tradizionalmente democratico, si era riequilibrato in chiave repubblicana. Ora, diciamo, con Obama il voto cattolico degli Stati Uniti sembra aver ritrovato anche una specie di alveo naturale, perché Obama è stato votato dai cattolici statunitensi. Certo. Allora bisogna fare un piccolo passo indietro e ricordare quel famoso discorso con cui Giovanni Paolo II il 17 aprile a ridosso della dichiarazione di guerra in Iraq spinse 200 milioni di persone a manifestare contro la guerra. Bisogna ricordare Condoleezza Rice, che veniva in Italia e scriveva su Panorama e veniva in Vaticano a dire: io non capisco cosa cerchiamo. bloccate, perché la Santa Sede aveva bloccato le proprie organizzazioni governative in Giordania insieme alla Croce Rossa, a cui l'amministrazione americana impediva di entrare in Iraq. Bisogna ricordare che il multilateralismo messo in crisi dall'amministrazione Bush è stato tenuto acceso dal Vaticano su un asse prima franco-tedesco e poi europeo. Bisogna ricordare il viaggio di Benedetto XVI negli Stati Uniti e in Israele. Bisogna allora ricordare che gli Stati Uniti, se rientreranno nel dialogo multilaterale che Bush ha messo profondamente in crisi, ha bisogno di qualcosa di più che una dichiarazione di intenzioni, ha bisogno di una specie di imprimatur morale. Però questo è il Benedetto XVI fine politico, quello che tu mi stai descrivendo. Però qui abbiamo insomma una enciclica che mi sembra soprattutto un profondo appello morale, o no? No, è un'enciclica che parte da un presupposto che io vorrei così invitare calmamente a ripensare a Gramsci dei quaderni dal carcere. Quando dici io come Chiesa non ho ricette socio-economiche da presentare, però ho la capacità di discernere il bene laddove dentro le culture, dentro i popoli, dentro le situazioni sociali queste verità vengono enunciate. Poi ho anche l'ambizione a rappresentare un sistema in cui questi semi di bene vengono sostanzialmente riprodotti all'interno di un progetto comune condivisibile, visto che l'umanità si sta velocemente unendo dentro la globalizzazione. Ed è significativo il fatto che, bypassando praticamente tutto l'insegnamento sociale di Giovanni Paolo II, che era stato molto applaudito e per nulla studiato, riporta un pochettino la palla al centro, ricordando la Populorum Progressio di Paolo VI, che quando uscì in quegli anni andava di pari passo con quel nuovo ordine economico che veniva nel 74 programmato come obiettivo dell'ONU. Poi la crisi in Iran e tutto il resto, la prima crisi energetica e tutto quello che ne è seguito, ha riportato tutto dentro, diciamo così, i buoni propositi. Però tra quella economia tra virgolette immaginaria che il mondo della finanza rimproverava Giovanni Paolo II e un progetto condiviso, così come usciva dal concilio con Paolo VI, secondo me Benedetto XVI ha un realismo politico gigantesco, che spiega anche tutti gli sforzi che con queste sue tre teologie encicliche ha fatto per fondare una vera teologia della società civile. Questo è molto interessante, ma però voglio capire se la visita italiana di Barack Obama, in fondo, no, ampiamente motivata da questa partecipazione al G8, poi all'Atre, nelle ultime settimane, si è arricchito di questo importante incontro, appuntamento con il Pontefice. Vorrei capire dal tuo punto di vista se alla fin fine è una mera questione, rappresenta una mera questione diplomatica. In fondo il motivo per passare in Italia era già grande ed esposto, no? Però invece si va dal Papa, ma perché è giusto, è il momento di rendere omaggio, conoscere, stringere la mano e quant'altro, o possiamo, come dicevamo in apertura, intravedere una ulteriore convergenza a questo punto, più di tipo mentale, programmatico? Ma mentre il Vaticano veniva condannato 46 volte dall'Unione Europea, soprattutto per iniziativa dei radicali italiani, evidentemente qualcosa a livello di Unione Europea il Vaticano ha fatto. Se Obama viene praticamente a rientrare nel club dove si parla di multilateralismo, chiedendo la presentazione della Chiesa. Ho capito il tuo punto di vista, ti ringrazio, ci risentiremo nei prossimi giorni, magari proprio in coincidenza con questa giornata importante di venerdì. Tra l'altro arrivano notizie attorno, no, a questa visita, la prima delle quali è che Barack Obama ha incontrato oggi a sorpresa anche il patriarca di Mosca, Kirill. Le istituzioni religiose, in particolare la Chiesa ortodossa russa, occupano un posto particolare nella vita della società russa, ha osservato il presidente americano, e che poi oltre a Obama è una lunga fila di First Lady, quella che coglierà l'occasione del G8 per andare a omaggiare Benedetto XVI, la moglie di Barroso, la moglie del presidente del Messico, la consorte del presidente del Sudafrica, del primo ministro indiano, e quant'altro. Barack, scusate, Benedetto XVI avrà il suo da fare, insomma, un'attività diplomatica non prevista. In fondo il G8 lo dovrebbe toccare lateralmente, ma evidentemente dovrà fare buon viso a cattiva sorte e fare la sua parte. Son of a gun, you're gonna make pretty women jump and shout, and the world wanna know what it's all about. Go on, yeah. Everybody knows, oh yeah. Yeah, you know the hoochie coochie. Gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Allora, torniamo all'attacco, all'apertura della puntata di oggi, quando abbiamo raccontato insieme a Mario Platero della visita in Russia di Barack Obama, di queste difficoltà incontrate nella presa di contatto, nell'apertura di rapporto con la esperta coppia Medvedev-Putin, e poi abbiamo rilevato quell'assenza che si fa ricorrente e anche un po' preoccupante ormai al centro di diversi gossip della stampa politica americana, ovvero l'assenza di Hillary Clinton. C'è, sappiamo, un incidente, una caduta sulle scale, un gomito rotto, ingessato, ma sono passate diverse settimane. Hillary è un po' tramontata, come dire, dal centro, no, della scena, dal cuore dei riflettori, tanto più in momenti eccezionali come quelli che si stanno osservando questa settimana, e la domanda ricorrente è appunto: dov'è finita Hillary? Che cosa sta facendo? Perché la vediamo così ai margini? Beh, una risposta l'abbiamo trovata, perché come tutti sapete Obama viaggia per il mondo, anche il suo vice Biden è quasi sempre in missioni di politica estera, ma l'America ha una brutta gatta da pelare sotto casa, nel famoso cortile di casa, che altro non sarebbe poi che il Centro America, e la gatta da pelare si chiama Honduras, ha detto Barack Obama stamattina nel discorso alla New Economic School di Mosca. Testuali parole: l'America sostiene il ripristino del presidente dell'Honduras Manuel Zelaya, eletto in modo democratico, anche se si oppone con forza alla politica americana. Ovvero, Zelaya è un nostro avversario, ma noi siamo contrari al concetto stesso di golpe. E allora, dov'è Hillary Clinton? Hillary Clinton è in missione sulla questione Honduras. È stata distaccata, diciamo così, sulla questione Honduras. Ora c'è il rappresentante golpista dell'Honduras, che si chiama Roberto Miceletti, che dice di contare sulla mediazione di Hillary Clinton per fare avanzare il dialogo in questa situazione. Ma Hillary Clinton è guardata con interesse anche dallo stesso Zelaya, oltre alla mediazione del Panama, che è la novità delle ultime ore. Comunque Hillary Clinton dovrebbe essere la grande mediatrice. Il presidente Zelaya infatti ha fatto sapere che ora si sta spostando negli Stati Uniti proprio per incontrare quella Hillary, che in merito al golpe con cui è stato esiliato potrebbe offrire delle soluzioni possibili. Quindi diciamo che Hillary non è sul palcoscenico principale, ma è in azione su un palcoscenico invece che con il passare dei giorni, tra l'altro, sta diventando particolarmente critico, e dove la sua esperienza e il suo tocco potrà sicuramente essere molto utile. Ne seguiremo gli sviluppi, però senza dimenticare che Hillary Clinton, in una delle sue rari concessioni, così, di aneddotica, di pettegolezzi, un giorno raccontò di essere stata, come dire, torturata dal attualmente ex presidente Zelaya durante una visita in Honduras. Lui la costrinse a fare le ore piccole, cosa che odia, per presentargli tutta la sua famiglia, una cosa che gli è rimasta sul gozzo, caro Emiliano, per cui Hillary non ci va volentieri, ma lo deve fare. E allora invece adesso apriamo una rapidissima finestra sullo Xinjiang, questa immensa regione all'ovest della Cina, nell'estremo ovest della Cina, direi ai più sconosciuta, e che non credo sarà al centro dei pensieri di Hillary Clinton, però purtroppo è balzata di nuovo agli onori della cronaca in questi giorni. La regione, sapete, è popolata dagli uiguri a maggioranza musulmana, con delle mire separatiste da lungo tempo nei confronti di Pechino. Ebbene, c'è stata una violenta sommossa nel weekend, domenica, con un bilancio ufficiale stilato dall'agenzia Xinhua di 156 morti e 1434 arresti. Ieri sembrava fosse tornata la calma nella città di Urumqi, che è l'epicentro di questa rivolta nello Xinjiang. Invece oggi di nuovo disordini. Intanto si segnala un'ultima ora che arriva addirittura dalla Turchia, dove ci sono stati disordini e tafferugli davanti all'ambasciata cinese, perché la locale comunità ugura ha protestato contro il governo di Pechino. Però oggi è stata soprattutto la giornata che è stata definita della vendetta degli Han, dei cinesi di etnia Han, che si sono rivoltati a loro volta contro gli uiguri. Pare si siano armati di bastoni e barre di ferro, e a migliaia hanno marciato nelle vie centrali di Urumqi. Caos civile, gridato cittadini Han, unitevi, e si sono lanciati proprio alla ricerca dell'uiguro, insomma una caccia all'uomo. Li hanno definiti, gli uiguri, secondo il punto di vista degli Han, come degli animali inferociti, gente posseduta dal male. Naturalmente c'è stato il rimpallo le responsabilità. Il governo cinese naturalmente continua a scaricare la colpa delle violenze sui manifestanti. D'altra parte invece la popolazione uigura accusa la polizia di... uno scenario pacifico, uno scenario accidenti, piuttosto inquietante. Segnalo anche un'intervista fatta oggi all'ANSA da Eric Alpetic, 70 anni, che è il fondatore del congresso mondiale uiguro, che naturalmente dà tutta la colpa ai cinesi, e dice insomma che il trattamento riservato agli uiguri è lo stesso che i cinesi poi riservano al Dalai Lama, a sua volta accusato di essere un terrorista. Quindi insomma la colpa sarebbe tutta delle autorità cinesi locali. Vedremo se Hu Jintao, durante, a margine di questo G8, prenderà posizione, ne parlerà di tutto ciò. Tra l'altro stasera scatta il coprifuoco a Urumqi, tanto per aggravare la situazione, certo, dalle 21 fino alle 8 di domani mattina. Sicuramente glielo chiederanno, vedremo se risponderà, vedremo se si presterà a domande di questo genere. Ne parleremo ancora, no, in pieno G8 qui a Jefferson anche domani. Io sono Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Filippo Aureggi a Milano. La mail è jefferson2@radio24.it, Facebook redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Replica a mezzanotte, diretta domani dopo le 4 qui su Radio 24. Ci sentiamo, state bene. How I saw it,